Simon. Va benissimo. Si avventa incerto per l'aria, volteggiando, emettendo grida di incoraggiamento su forti ali poderose da poiana. Oh, ragazzo, ce la fai a vincere? Hop, shat! Nella stessa stalla con quei mezzo sangue. Non li vorrei a portata di raglio d'asino. Testa alta, alto l'onore delle nostre bandiere. Aquila rossa volante spiegata su campo argento, maestro d'armi dell'Ulster, e hop! Imita il classico richiamo del bassotto. Ehi, forza ragazzo! Fogliame e fondi della tappezzeria trascorrono rapidamente attraverso la campagna. Una grossa volpe, cacciata dal suo rifugio a coda tesa, appena seppellita la nonna, corre di filato verso l'aperta campagna, occhi lustri, in cerca di una tana di tasso sotto le foglie. Segue la muta dei veltri, naso a terra, fiutando la preda, abbaiando come bassotti, burblando, in cerca di sangue. Cacciatori e cacciatrici della World Union sono tutt'uno con loro, eccitati per finire la preda. Da Six Mile Point, Flathouse, Nine Milestone arrivano gli appiedati con bastoni nocchieruti, forconi da fieno, raffi, lazzi, i guardiani di greggi con le loro fruste, i cacciatori d'orso coi tantam, i toreadores con le spade, i neri grigiastri che brandiscono torce, urla tormesche di giocatori d'azzardo, giocatori delle tre carte, ciurmadori, scommettitori e informatori, allibratori rochi con cappelli alti da stregoni fanno un baccano assordante. La folla. Programma delle corse! Programma ufficiale! 10 a 1 il campo! Tommy al peso! Tommy al peso! 10 a 1 per l'uno! 10 a 1 per l'uno! Provate con la ruota della fortuna! 10 a 1 per l'uno! Vendo a 500, ragazzi! Vendo a 500! Lo do a 10 a 1! 10 a 1 per l'uno! Un cavallo sconosciuto, senza fantino, balza come un fantasma oltre il traguardo, criniera a luni schiumante, i bulbi degli occhi stelle. Segue il campo un gruppo di cavalcature impennanti, cavalli scheletrici, Sceptre, Maximum II, Zinfandel, Shotover del Duca di Westminster, Repulse, Ceylon del Duca di Beaufort, Prix de Paris. Li montano nani rivestiti di armature arrugginite, saltando, saltando nelle selle. Ultimo, in un pulviscolo di pioggia, su una ronza Isabella sfiatata, Gallo del Nord, il favorito. Berretto color miele, giubba verde, maniche arancione. La monta Garrett Deasy, redini strette, bastone da oche in resta. La ronza, inciampicando su zampe malate, inghettate di bianco, incespica lungo la strada sassosa. L'elogio rangiste. Ironiche. Scendi e spingi, signorino. Ultimo giro. Arriverai a casa per cena. Garrett Desi, dritto come un fuso, viso graffiato dalle unghiate e inceronato di francobolli, brandisce il bastone da hockey con gli occhi azzurri che fiammeggiano nel prisma del lampadario, mentre la sua cavalcatura passa a galoppo di scuola. Per via rectus. Una sfilza di secchie sbrodolano addosso a lui e alla ronza che si impenna, un torrente di brodo di castrato con monete danzanti di carote, orzo, cipolle, rape, patate. Le logge verdi. Giorno coperto, Sir John, giorno coperto, vostro onore. Il soldato Carr, il soldato Compton e Sissy Caffrey passano sotto le finestre cantando in dissonanza. Steven, udite! Amico nostro, rumore nella strada. Zoe, alza una mano. Fermo! Il soldato Carr, il soldato Compton e Sissy Caffrey. Ne vado matto per quella rosellina dello Yorkshire. Zoe. Sono io! Batte le mani. Ballare, ballare! Corre alla pianola. Chi ha 2 pence? Bloom. Chi è che... Lynch, porgendo le monete. Ecco qua! Steven. Facendo schioccare le dita con impazienza. Presto, presto! Dov'è la mia verga d'augure? Corre alla pianola e prende il bastone di frassino, battendo il piede in tripudio. Zoe gira la manovella. Eccoci! Mette 2 monetine nella fessura. Appaiono a un tratto luci dorate, rosa e violette. Il cilindro gira, ronfiando un valzer con pause. Il professor Goodwin, in parrucca con codino, abito da cerimonia e mantellina tutta macchie, piegato in due dall'incredibile vecchiaia, attraversa barcollando la stanza col tremito alle mani. Si siede piccino piccino sul panchetto e solleva e batte con stecchi di braccia senza mani sulla tastiera, dondolando la testa con vezzi da ragazzina e col codino che gli balla. Zoe gira su se stessa battendo i tacchi. Ballare! Nessuno che ci sta! Chi vuol ballare? Via il tavolo! La pianola con luci cangianti suona a tempo di valzer il preludio de La mia ragazza e dello Yorkshire. Steven getta il bastone sul tavolo e afferra Zoe per la vita. Flory e Bella spingono il tavolo verso il caminetto. Steven, che tiene per le braccia Zoe con grazia esagerata, comincia a ballare il valzer con lei intorno alla stanza. Bloom si fa da parte. La manica cadendole dal braccio aggraziato rivela il bianco fiore di carne della vaccinazione. Tra le quinte, il professor McGinney inserisce una gamba sulla cui punta turbina un tubino. Con abile calcio se lo fa volare, sempre turbinante, in testa e entra pattinando in scena galantubinato. Indossa una marsina grigiastra con risvolti di seta rossicci, jabot di tulle color crema, un panciotto verde a scollo, colletto inamidato e cravattone bianco, calzoni stretti color lavanda, scarpette di coppale e guanti canarino. Ha una dahlia immensa all'occhiello. Fa il mulinello con un bastoncino marmorizzato avanti e indietro, poi se lo incunea stretto sotto l'ascella. Con una mano appena appoggiata sul petto, fa un inchino e si accarezza fiore e bottoni. McGinley. La poesia del movimento, l'arte della callistenia. Nessun rapporto con la signora Leggett Byrne o la scuola Livingstone. Si organizzano balli in costume. Il portamento. Il passo di Katie Lanner. Così, guardate me, le mie qualità tersicorei. Minuetta avanti di 3 passi su zampette d'ape saltellanti. Tout le monde en avanti, révérence, tout le monde en place. Il preludio termina. Il professor Goodwin, agitando vagamente le braccia, si rimpicciolisce, si lascia andar giù. La mantellina ancor viva casca ai piedi del panchetto. L'aria, martellata su un ritmo di valzer più deciso, risuona. Steven e Zoe volteggiano liberamente. Le luci cambiano, rilucono, sbiadiscono, oro, rosaceo, violetto. La pianola. Due giovani parlavano delle loro belle, belle, belle che al paese avevano lasciato. Da un angolo arrivano di corsa le ore del mattino. Aurocrinite, calzate di sandali leggeri, vestite di azzurro giovanile, vitini di vespa con mani innocenti. Agilmente danzano, facendo girare le corde da saltare. Le ore del meriggio seguono in ombra dorata, ridenti, tenendosi per mano, con alti pettini balenanti, afferrano il sole in specchi ingannevoli, levando alte le braccia. McGinney batte mani, silenti guantate. Carré, avant deux, respirare regolarmente, balancer. Le ore del mattino e del meriggio ballano il valzer ai loro posti, girando, muovendosi l'una incontro all'altra, modellando le loro curve, inchinandosi vicendevolmente. Cavalieri dietro a loro inarcano e tengono le braccia sospese in aria, con le maniche si abbassano, toccano, si distaccano dalle loro spalle. Ore, puoi toccarmi il cavalieri? Posso toccarti? Ore, oh, ma piano! Cavalieri, oh sì, piano! La pianola. La mia timida piccina ha un vicino! Zoe e Steven girano arditamente con più sciolto slancio. Le ore del crepuscolo avanzano, da lunghe ombre terrestri, sparse, esitanti, languidi gli occhi, guance delicate di cipria e un fievole falso colore. Sono avvolte in veli grigi, con scure maniche a pipistrello fluttuanti nella brezza di terra. McGinney. Avant, oui, traversé, salut, cours de main, croisé. Le ore della notte, una ad una, strisciano furtivamente agli ultimi posti. Le ore del mattino, del meriggio e del crepuscolo si ritirano davanti a loro. Sono mascherate con pugnali nei capelli e braccialetti di campanelli dal suono sordo, stanche, muccimucciano sotto veli. I braccialetti. Ehi io! Zoe, contorcendosi, una mano alla fronte. Oh! McGinny, le tiroir! Chaîne de dames! La corbeille! Do a do! Arabescando stancamente. Tessono un disegno sul pavimento, tessendo, stessendo, inchinandosi, contorcendosi, proprio girando. Zoe, mi gira la testa! Si libera, s'affloscia su una sedia. Steven afferra Florrie e gira con lei. McGinney, Boulanger, Le Ronde, Le Pont, Chevaux de Bois, Escargot, allacciandosi, retrocedendo, cambiando di mano. Le ore della notte si prendono a braccetto, ognuna di loro con le braccia ad arco in un mosaico di movimenti. Steven e Florrie girano pesantemente. McGinney, dansez avec vos dames, changez de dames, donnez le petit bouquet à votre dame, remerciez. La pianola. La meglio di tutte, barabum! Kitty salta su. Oh, era questa che suonavano sulla giostra alla pesca di beneficenza Myrus! Corre da Steven. Egli lascia bruscamente Florrie e afferra Kitty. Un alto, acuto, stridulo fischio di tarabuso urlante. La giostra Toft, pesante e gracchio ruglio gorgogliante, gira lentamente la stanza, torno, torno alla stanza. La pianola. La mia ragazza è dello Yorkshire! Zoe, Yorkshire fino in fondo, sotto tutti, afferra Florrie e balla il valzer con lei. Steven, passe! Piruetta Kitty tra le braccia di Lynch, dà di piglio al bastone posato sul tavolo e guida la danza. Tutti piruettano, volteggiano, turbinano, valzereggiano, Blumbella, Kitty Lynch, Florrie Zoe, donne giuggiolose, Steven con cappello, bastone e saltarana nel mezzo cancan, scalciando al cielo con bocca chiusa, mano, stringe parte sotto coscia. Con fragore tintinni, boom martello, ali ali, suonator di corno, lampi azzurri, verdi, gialli. La pesante di Toft gira con cavalieri su cavallucci ciondoloni da serpenti dorati, budella, fandango, saltanti, batte, suolo, piede e ricade. La pianola. Benché lavori all'officina e non si metta bei vestitini. Aggrappati, stretti, lesti, più lesti, con virate, luci, voci focose, essi rimbombavanzano rumorosamente. Barabum! Tutti. Bis! Ancora! Bravo! Bis! Simon. Pensa ai parenti di tua madre. Steven. Danza macabra. Bang! Di nuovo barang bang del campanello del banditore. Cavallo, ronza, torello, porcellini. Conmi su asino di Cristo, zoppo, gruccia, marinaio gamba di legno, in canotto, braccia incrociate, tira fili, tira su, pesta cornamusa fino in fondo, barabum! Su ronze, maiali, cavalli a sonagli, porci di Gadara, corni nella bara, acciaio, squalo, pietra, Nelson monomano, due sospette Frauenzimmer imprugnate da carrozzina cadendo urlando. Perdiana è un campione. Blumiccia sbircia dal barile, Rev Angelus Love su carrozzino traballante, Blazes avvolgibile, ciclisti piegati in due come un merluzzo in scatola, Dilly con la meringa, niente bei vestitini. Poi, nell'ultimo giro in giramento di montagne russe, traballando su e giù, sbatte Tino della Birra, una specie di vicerei regina, va matto per la sbattiballa, Rosellina dello Sbattishire, barabum! Le coppie si separano. Steven volteggia in preda alle vertigini, la stanza gli volteggia intorno in senso inverso, occhi chiusi, traballa, binari rossi volano via nello spazio. Stelle intorno a soli girano tutte in giro, zanzarine fulgide danzano sul muro, si ferma di botto. Steven. La madre di Steven, emaciata, sorge rigida dal pavimento, in veste grigio lebbra, con una ghirlanda di fiori d'arancio appassiti e un velo nuziale lacerato. il volto consunto e senza naso, verde di muffa sepolcrale. I capelli sono radi e lenti. Fissa le occhiaie cave cerchiate di azzurro su Steven e apre la bocca sdentata, emettendo una parola silenziosa. Un coro di vergini e di confessori canta senza voce.